Ricapitolazione. Per vedere meglio, raggruppandolo insieme, quanto è stato diffusamente esposto, riepiloghiamo tutto sommariamente. Come è stato notato nei precedenti esempi, puoi vedere come i predetti gradi siano collegati tra di loro e come si succedono l'uno all'altro, sia nell'ordine del tempo sia in quello della causalità. La lettura, infatti, si incontra per prima come fondamento e, fornita la materia, ci porta alla meditazione. La meditazione ricerca con maggiore attenzione che cosa sia da desiderare e, quasi scavando, trova un tesoro e lo mostra. Ma non potendolo raggiungere da sé sola, rimanda alla preghiera. La preghiera, elevandosi con tutte le sue forze verso Dio, impetra il tesoro da desiderarsi, cioè la soavità della contemplazione. La contemplazione, sopraggiungendo, ricompensa il lavoro dei tre precedenti gradi, inebriando l'anima assetata con la rugiada della dolcezza celeste. La lettura è un esercizio dei sensi esterni, la meditazione è un lavoro dell'intelletto, la preghiera è un desiderio, la contemplazione è un superamento di ogni senso. Il primo grado è dei principianti, il secondo dei proficienti, il terzo dei devoti, il quarto dei beati.